vuol dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. La Zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Stimoli andare al cesso. Quando sento te mi viene voglia di cagare. Niente, io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serve. Sei sceso di livello, ma stavo scherzando. A Cruciani ha decaduto. Allora ragazzi, due paroline oggi vanno dette, due paroline in apertura vanno dette sulla vicenda De Luca, il governatore del mondo, almeno secondo me, temporaneamente governatore della Campania, non so quanto temporaneamente governatore della Campania, potrebbe anche perdere questa corona di governatore della Campania, il quale non dico che dà la colpa ai suoi collaboratori, però certo dice chi ha sbagliato deve pagare, se qualcuno ha commesso degli errori deve pagare, io sono estraneo e siccome sono coinvolti oltre a lui anche i suoi collaboratori, beh ragazzi sono cazzi, parla esplicitamente di chi ha, non fa nomi e cognomi, però dice se qualcuno ha commesso delle cose pagherà. Ora vi dico questo, la cosa sicura è che alcuni dei più stretti collaboratori di De Luca, presidente della Campania, hanno avuto rapporti, questo è certo, al di là dell'indagine, hanno avuto rapporti con il giudice e con il marito del giudice che si occupava della decadenza del loro capo. Questo è il punto. Allora basta solo questo per me, solo questo, solo il fatto che questi signori nel circolo stretto del governatore De Luca abbiano avuto contatti, scambi di mail, scambi di messaggi, telefonate, non mi interessa, il solo fatto che abbiano avuto contatti con il giudice e con il marito del giudice, questo già dovrebbe essere sufficiente, non dico per cacciare via De Luca, in altri paesi lo avrebbero già cacciato via perché la colpa dei tuoi collaboratori non è che è solo dei tuoi collaboratori, ma mettiamo anche che lui sia estraneo, che abbiano fatto tutto gli altri, comunque se il tuo principale, se il tuo, uno dei tuoi bracci destri e un'altra persona si sono occupati di questo caso con il giudice, ragazzi, la responsabilità politica è sempre del capo, non è che può essere dei sottoposti. Comunque De Luca stamattina, dai. In un paese nel quale chiunque voglia trasformare la realtà, prima o poi l'abuso d'ufficio se lo prende. Beh, in questo caso non c'è l'abuso d'ufficio però, quello era un'altra vicenda, in questo caso c'è la concussione in base. Allora, poi parla del suo collaboratore che tra l'altro si è dimesso qualche giorno prima che uscisse sui giornali. Anche questo è curioso. Signor dai. Masturzi si chiama, che non è Churchill, dice. No. Ho capito, ma però ci tengo solo a precisare questo, perché tu hai detto giustamente il giudice. Diciamo la giudice. No, ma non mi fare queste cose la giudice, ma chi se ne fotte la giudice? No, perché altrimenti si incazza la Boldrini, no. Primo. Secondo, chi ascolta potrebbe essere tratto in inganno e pensare che si tratti di coppia homosex, cosa che invece non è. Perché c'è la giudice. Si stanno separati. La giudice donna, quella che avrebbe dovuto decidere sul caso. No, che ha deciso sul caso. Sì, sul caso De Luca. Sì. La giudice donna, sì. La Scognamiglio. E il marito della Scognamiglio, sì. Che avrebbe avuto l'interesse a entrare nella ASL. Questo è uomo donna, tu dici il giudice, uno dice cazzo, loro un uomo, no? La giudice. È uguale, comunque De Luca. Precisazione forse De Luca, pedante. De Luca su Masturzi, che è questo suo collaboratore. Vabbè. Ci può raccontare chi è Masturzi? Posso dirle quello che non è di Masturzi. Non è Winston Churchill, l'ho già detto. Non è Camillo Benso di Cavour, che le devo dire? Vabbè, ma che vuol dire l'hai scelto tu? Ma non è che l'ho scelto io, dai De Luca, su. Ma se vuoi essere governatore del mondo, bisogna assumersi pure la responsabilità di essere governatore del mondo. Le posso dire una cosa? Non è, sì. Crumini. No, perché personaggetto. No, ma sono infame. Ma come volgare, vergognosa, ricattatore. Ma non con sono quella radio, personaggetto. Certo non è un radiofonico. Sa cosa fa con quel microfono Cruciani la notte? Che faccio? Glielo vuole che gli dica cosa fa quel personaggetto che la faccio? Notte che faccio? Con quel microfono si titilla col microfono. Ma non è vero! È lì la notte mentre fa lavoro con le sue 12 compagne in quell'area, in quella casa enorme di 900 metri quadri, urla traffico. Personaggetto, personaggetto. Poi dice un'altra cosa, De Luca, per fare questo lavoro ti scoppia il cuore. Beh, ti scoppia. Sì, ho capito, però ragazzi, ancora una volta, i collaboratori li hai scelti tu, caro De Luca, collaboratori li hai scelti tu. Amico tuo, De Luca, l'hai sempre difeso tu. No, ma io lo difendo ancora come i governatori del mondo sono degli zozzoni di solito, non sono Gandhi. I governatori del mondo di solito sono dei cinici zozzoni. Anche se ha fatto qualche minchiata, chi se ne frega, sempre governatore del mondo lo voglio. Però uno deve avere pure la dignità di dire: sì, ragazzi, ho fatto una telefonatina al giudice, volevo sapere come andava sta cosa qui. No, la colpa è di Masturzi, che non è Masturbi, Masturzi, dai! Perché per fare questo lavoro che stiamo facendo noi devi sputare l'anima e te ne torni a casa la sera senza aver avuto il tempo neanche di mangiare, sentendoti il sangue in bocca. Lì? Cioè stando nella situazione nella quale avverti che lì ti scoppia il cuore. Ancora una volta, i collaboratori li hai scelti tu e non l'ha ordinato il dottore di fare il governatore della Campania. Se uno l'ha scelto, poi non è che si può lamentare, mi scoppia il cuore, lavoro troppo, no, c'ho tutti i cazzi dalla mattina alla sera. Lo sappiamo che è un lavoro, che è una rottura di coglioni, però c'è anche il potere, l'adrenalina del potere, altrimenti uno perché lo fa? Cioè non è che lo fa per così, per grazia ricevuta, lo fa perché magari vuole fare un po' di bene, nel migliore dei casi, ma nella maggior parte dei casi lo fa perché è bello il potere. Allora, i funerali di Mattielli ieri, c'era anche il gioielliere, quello Zancan, te lo ricordi, il famoso gioielliere? Cos'è, un rassemblamento? Quello di Stacchio. Sì, un rassemblamento di gente che spara. Cos'è? C'era Formaggio, che fra poco spero di avere qui. Spero di avere ma qui. Ma cos'è una ancora ai ma microfoni? Non, ecco, io ho grande rispetto per Hermes, non è Hermes. Ma non per chi va... Non è Hermes, però digli, o Gucci, digli, adesso, come qua, quell'altra. Sì, esatto. Come la salta però adesso, partiti, quando arriva, dice. Sì, salta partiti, sì. Come quando viene Formaggio. Digli in faccia, sei andato al funerale, sfruttatore. Certo, ma ci mancherebbe. Cimico, sfruttatore. Formaggio? Sì, dovrebbe venire Formaggio. Oggi viene Formaggio? Sì, viene Formaggio. Viene Formaggio alla radio? Viene Formaggio, sì. A Radio 24, magistralmente diretta dal direttore Alberto Napoletano? Sì, è un abitué. Ma lo sa il direttore Napoletano che viene? Ma io, ad esempio, questa è la questione che volevo porti in 30 secondi. Non ho mai visto interviste sul Sole 24 Ore direttore di Gio Formaggio. Esatto, come mai? Ti volevo Zancan, porre fammi sentire in Zancan. Diretta questo quesito. Perché ti è venuto il dubbio mai del perché? Ma chi se ne fotta, guarda. Zancan. Vengono qua, fanno il cazzo che vogliono, ti ammazzano anche e tu devi star là a subire. Io no. Io sono armato fino ai denti e continuerò per la mia strada. Sarà una goccia in mezzo al mare, però non mollerò. E oggi sono stato qua in sostegno di quella povera persona. Era una persona umile, buona, che dalla vita non ha avuto niente, tantomeno dello Stato. Era invalido, viveva con 100 euro al mese e non c'erano neanche i soldi per fare il funerale. Allora, invece da Arenazzo, provincia di Ferrara, vicinanze di Ferrara, c'è qualche voce di gente molto incazzata dopo la morte della signora ultra ottantenne massacrata da due romeni, massacrata, i quali poi, i poveretti, l'abbiamo già detto ieri, me lo voglio ripetere, dicono, beh, davanti a tutto quel sangue abbiamo perso la testa, ma vai a fare in culo. Dobbiamo fermarli, io sarei la prima, io che ho sempre eseguito i 10 comandamenti, sono la prima che se uno mi dà la pistola, t'ammazzo. Un'altra vecchiettina, sono un sacco di vecchiettine armate, no, vabbè, che cominciano lei, ad armarsi in quelle zone lì. Il dolore, questo fa senti, infatti senti, senti, senti quest'altro, senti. Niente, qua una volta si dormiva tranquillamente con le porte aperte, adesso qua siamo arrivati a mettere allarmi, catenacci e dormiamo con la pistola sotto il cuscino. Ragazzi, io voglio dire una cosa, dopo l'ennesimo scandalo di cui parleremo a lungo della Chiesa Cattolica, dei preti, questo prete di Cassino, dell'abbazia molto famosa dei Benedettini, il quale spendeva una marea di quattrini dell'8 per 1000, 34.000 euro al giorno, al mese, una volta. Esatto, alberghi, cocaina, orge, 34.000. Esatto, viaggi, bella vita, era iscritto a qualche chat dove si scopa, eccetera, eccetera. Vabbè, quello, sì. Da un certo punto di vista, beato lui, no? Qualcuno mi ha scritto: meglio spendere i quattrini dell'8 per 1000 in puttane e cocaina piuttosto che spenderli per la curia di Roma. Per la curia di Roma. Scusa con umiltà, non vorrei dire una banalità, battuta, una ma battuta. Non è Di Pre, non è il signor Di Pre. È un monsignore, santo cielo. Non è Di Pre il tuo amico, me che diceva quello cocaina. No, non è il dibreismo. È un'altra cosa, è vero, quel è vero, signore. È vero un princeps, sembra ecclesia. Non è scusa, com'è, sai, che si chiama? Vitto? Non mi ricordo come si chiama quel prete lì, Vitto eccetera. Ah, quello del che sembra effettivamente aver seguito un'altra dottrina, il dibreismo. La dottrina dibreista. Un'altra cosa, su. Io dico comunque, sono molto contento di non aver mai dato l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Ma mai, che c'entra, che mai c'entra. l'8 per 1000, ragazzi, bisogna fare una grande campagna, ecco dove vanno a finire i vostri soldi, voi che date l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. No, in puttane, solo, dai, no, cocaina, no. Preti pedofili, no, così vanno a finire, certo, così vanno a finire, ma come no, è chiaro, l'8 per 1000 delle missioni, ma vanno in ma sì. Africa, hanno in i soldi, sfruttassero i palazzi, vendessero le proprietà vaticane. L'8 per 1000 va a finire in puttane e cocaina. Questa è la realtà che esce fuori. Puttane e cocaina, mai. 8 per 1000, mai alla Chiesa Cattolica. Traffico, dai, basta, traffico, chiudiamo tutto. Traffico, il traffico è il problema. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta La Zanzara. Potremmo andare a quel paese, Parenzo. Ragazzi, come si può sopportare ancora il versamento dell'8 per 1000, che andrebbe tolto come possibilità? Io non capisco perché nelle dichiarazioni del fisco ci deve essere l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Non lo capisco perché. Se uno vuole, dai i soldi alla Chiesa Cattolica come vuole. Se uno si vuole suicidare, vuole buttare i soldi, li dia pure in qualche modo alle missioni, alle cose, va benissimo. Uno può buttare i soldi oppure cercare di pensare di impiegarli bene. Ma perché nella mia dichiarazione fiscale, che è una cosa che riguarda lo Stato, ci deve essere l'8 per 1000? Perché? Perché ci deve essere l'8 per 1000? Perché uno Stato laico toglie questa cosa qui, la toglie, poi se tu vuoi dare i soldi, dai lo stesso. Non è che poi arrivano lo stesso i soldi, lo sai che arrivano lo stesso con l'8 per 1000, no? Anche se non lo dichiari, lo sai, sì. Beh, sì, però. Amico mio, dai. E poi, Gesù sì, ma vabbè, sì, sempre si è lodato, cioè. Questo è. Però uno può sopportare il fatto che un signore sfrutti i soldi dell'8 per 1000 in estasi, viaggi e ostriche. È un caso, dai, vecchio ma mio, che è un caso, non dai, si può generalizzare su. Santa ma Roma l'Ecclesia. Io vorrei farvi del partito concorrente. Vorrei diciamo farvi riascoltare partito, le parole pronunciate ieri sera, in tarda serata, qui alla Zanzara, dal professore emerito Antinori, Severino Antinori, sulla Chiesa Cattolica. Parole molto sobrie, medico famosissimo per un sacco di cose, ovviamente soprattutto per aver fatto nascere tantissimi bambini, no? Con metodi modernissimi, ma io sono dalla sua parte in questo caso, con le battaglie per la vita, per la nascita, eccetera eccetera. Ha dato un giudizio molto tranchant sulla Chiesa Cattolica, che io condivido in pieno, naturalmente. Io la Chiesa la ritengo clericale, delinquenziale, fascista e corrotta fino all'osso, quindi è l'organizzazione più pericolosa, e Papa Bergoglio è un foglio di fico. Un foglio di fico, stupendo. Allora, io direi di partire con gli ascoltatori, che siamo caldissimi questa sera. 800 24 00 24, Giorgio da Ravenna. Vai, Giorgio. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Ciao, dimmi. Ciao. Allora, io intervenivo a proposito dei Rom. Signori Rom, che vuoi dire sui Rom? I signori Rom, esatto. Allora, io penso una cosa, io penso come si fa a essere tolleranti, per quanto uno ci possa mettere alla buona volontà, con della gente che comunque cresce i figli, non è che li cresce, li alleva a fottere il prossimo e a delinquere. E dunque? Allora, io ti dico, in due parole ti dico subito una cosa. Allora, praticamente io ho adottato una adesso c'ho 21 anni, quindi l'ho adottata. Sì. Lei è una ragazzina di etnia serbo-bosniaca. Lei ha vissuto fino ai 6 anni d'età al campo Rom. E allora? Ti dico che praticamente quando fecero la retata al campo nomadi trovarono sotto il frigo e balle varie un miliardo delle vecchie lire, tra gioielli e contanti. Lei versava in condizioni, non dico veramente dire disumane, dire poco. No? Cioè, e allora? Veniva la nonna a fare gli incontri perché all'inizio... Vabbè, la soluzione nonna, qual è secondo te, la soluzione? La soluzione è che sta gente qui bisognerebbe veramente inquadrarla in una maniera abbastanza netta. Perché, cioè, perché inquadrarla in maniera abbastanza netta per te cosa vuol dire? Temo, Parenzo, temo. Ma perché se ne fottono, capito? E allora fare cosa? Se ne fottono di tutto e di tutti. E dunque? Cioè, questa gente qui andrebbe presa, altro che... Cioè, devono andare a questa lavorare. Questa gente qui andrebbe presa. Sì, devono andare a lavorare. Sì, vabbè, questo siamo tutti d'accordo. Come gli altri. Va bene, Giorgio, Massimo da Brescia, ho capito. Vabbè, questo siamo d'accordo, diciamo. Tutti. Massimo da Brescia, vai, Massimo. Sì. Dimmi, Massimo. Vai, dimmi. Volevo chiedere a quel... una specie di... pezzino lì di Parenzo. Non, non si sente, Anna Maria da Roma. Anna Maria da Roma, vai. Buonasera. Dimmi. Allora, io volevo dire semplicemente su questione Giuga. Sì, però togli il viva voce, se no non si sente bene. Aspetta Anna Maria, un attimo, dai. Aspetta un attimo. Dai, amica mia, su. Ecco, sulla questione di Luca. Sì. Secondo me si fa tanto rumore per una cosa che è veramente assurda. Prima di tutto, la sentenza che è stata fatta per De Luca è stata una sentenza all'unanimità. Per cui se un giudice ha voluto pure parlare con qualcuno e ha cercato di dire che c'è stato, ha fatto favore. Beh, però è stata scritta è stata scritta da quel giudice che ha una sua un peso, no, no, un peso notevole. Aspetta un attimo, voglio dire un'altra cosa. Se un collaboratore di De Luca ha preso qualche iniziativa, non è che può essere una responsabilità di De Luca, perché purtroppo lo dico per esperienza personale, a volte i collaboratori vogliono essere più realisti del re, pensando che sono solo. Guardi, io mi rifiuto di pensare che uno agisca su una cosa così importante come un giudizio, una sentenza sulla eventuale permanenza di De Luca alla presidenza della Regione Campania senza l'avallo del capo, soprattutto per una gestione molto accentratrice. No, ma perché, d'accordo, può accadere. Faccio dire una cosa, perché perché la presenza di Luca in campagna è anche la presenza loro. Sì, d'accordo. A volte... No, d'accordo, però ripeto, ammettiamo anche che De Luca fosse completamente estraneo a tutti i contatti dei suoi collaboratori con il giudice, eccetera. Comunque la responsabilità è sua, non cambia nulla. Non sarà penale la responsabilità. Non sarà una responsabilità penale, quello vedremo, i tempi sono lunghi, ma c'è una responsabilità politica. Se due tuoi collaboratori, lo dico al governatore del mondo con grande chiarezza, con grande simpatia anche, cioè, se due collaboratori che hai scambiano mail o messaggi, hanno rapporti telefonici con il giudice che deve decidere sul tuo caso, e beh, amico mio, anche se tu non lo sai, anzitutto se non lo sai è addirittura peggio, perché significa che non controlli i tuoi uomini, cioè li hai scelti male. Poi se lo sai chiaramente sei colpevole, ma anche se non lo sai è uguale, c'è una responsabilità politica, è lo stesso, non cambia nulla, secondo me. Le responsabilità penali sono un'altra cosa. Davide, Reggio Emilia, vai. Sì, buonasera. Io volevo invece farvi riflettere, a te e quell'altra persona che hai lì in fianco, riguardo al fatto che sputate sulla Chiesa. Sì, nessuno sputa. Carità, no, io soprattutto, Parenzo no. È una cosa da mettere a posto. Ragazzi, ma vi rendete conto di fare questa bella trasmissione e fare il radical chic? No, io non faccio affatto il radical chic. Ascoltami. Se tu ti puoi permettere di fare questa bella trasmissione, perché siamo figli, volenti o nolenti, di mille cultura cattolica, perché ti voglio ricordare, amico mio, senti, io faccio questa trasmissione, certo non è per la Chiesa cattolica, certo non è per i mille anni di cultura di Chiesa cattolica, quello che dici tu, tu sei nato e cresciuto in un contesto di libertà, perché invece ma che c'entra? Nato da qualche altro paese, soprattutto l'altro signore che hai in fianco, lo userebbero per posteggiare le biciclette, e non ti dico come, perché ci sono anche magari dei bambini all'ascolto. Quindi evitiamo di sputare così in maniera... Io dico semplicemente che mi sono molto orgoglioso di non avere mai dato un euro alla Chiesa Cattolica attraverso l'8 per mille. Sono veramente orgoglioso, soprattutto quando vengo a sapere che vengono spesi anche in estasi, droga, viaggi, ostriche, eccetera eccetera. Giornale Radio. Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto dritto. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta La Zanzara. Non è mica solo scopare come intendi tu scopare, ma la donna devi viverla in toto. La donna è un essere umano. Scopare e far l'amore sono due cose completamente diverse. Ma tu forse questa cosa non l'hai ancora capita? Allora ragazzi, quello che sta avvenendo tra due parlamentari della Repubblica è veramente incredibile. I due parlamentari sono Laura Ravetto di Forza Italia e Dario Ginefra del Partito Democratico. Beh, questo è un affare importante. Un affare di Stato, direi quasi. Quasi un affare di Stato. No, ma non c'è da scherzare su questa cosa. Allora, come sapete, la signora Ravetto, credo l'altro ieri su che Twitter, ho sentito oggi. Sì, Urbi e Torbi ha annunciato che la storia con il signor Ginefra, anche se non. Che succede? Eh? Che ha fatto? Che hai fatto? Soffia il naso, tutto in diretta, no? Ma dai, su. Tutto ragazzi, trasparente, su, tutto trasparente, tutto in onda, ma come non va? È possibile. E ti fai le ascelle, ti lavi e non ti lavi. E ora stranotisci in diretta. Allora, la signora Ravetto ha annunciato Urbi e Torbi, pur senza fare il nome del signor Ginefra, che la sua storia è finita, che lei adesso è single e dunque avvertenza ai paparazzi, eccetera, eccetera, finite di paparazzarmi perché tanto, insomma, la mia storia è finita e dunque non c'è niente di strano se io mi vedo con un altro. Adesso non ha detto proprio così, penso, ma più o meno questo. No, chi si vede con un altro? No, dico se, come dire, era un avviso anche ai paparazzi, no? A quelli che si occupano di gossip, eccetera, eccetera. No, non si vede con un altro. Ma non lo so, non l'ho detto io. È impossibile sostituire l'amore di Ginefra. Allora, signor Ginefra ha risposto oggi. Sempre deputato, ma del PD questa del volta. PD. Parliamo di due deputati. Sì, ma la premessa politico. È quello che diciamo l'altra volta. Sì. La premessa è quella che diciamo l'altra volta. Sì. Cioè, sti cazzi, eh. La premessa è quella che diciamo l'altra volta, eh. Ma, cioè. La premessa è quella che diciamo l'altra volta, cioè dire sti cazzi. Però, oggi il signor Ginefra pubblica sulla Gazzetta del Mezzogiorno un articolo. Ma la cosa curiosa del signor Ginefra, ex fidanzato della signora Ravetto, qual è? È che dice queste cose qui. Alla richiesta di commentare questa fase dolorosa della mia storia d'amore con Laura, ho preferito ripararmi dietro un apparentemente freddo e asettico no comment. Scusa, amico mio. Come? Tu ti ripari dietro il no comment e scrivi un articolo su la prima pagina di un quotidiano? Ma che no comment è? Ma quale no comment è? Ma è incredibile questa cosa. No comment è. Una scrive su Twitter e uno scrive sulla prima pagina del giornale. Ma scusa, oltre al, ripeto, al sonoro e chiaro sti cazzi. E chi se ne frega, non ce lo metti. Esatto. Oltre a questo bisogna anche aggiungere un'altra cosa, cioè un'altra cosa fondamentale. Cioè, amici miei, siete alla camera, ma non c'avete proprio un cazzo da fare, siete a 10 metri l'uno dall'altra, spiegatevi, no? Invece di scrivere articoli sulla Gazzetta del Mezzogiorno, scrivere le cose su Twitter, poi ci obbligate a chiamarvi e a chiedervi conto di questa cosa, no? Giusto, Parenzo? Come... No, con finora è tutto corretto, infatti non interrompo, quando è corretto dai, non interrompo. Su. E chi se ne frega, non ce lo metti. Voglio dire due cose poi sulla vicenda Padova. Sulla vicenda Padova. Molto la vicenda grave. No, ma che è molto grave. Molto, molto, molto grave quello, no, che succede, guarda, anche in quella, no, città. L'hai detto l'altro giorno tu, senza forse, non ti ricordavi del nome della Marzano, il libro che come bisognava, no, presentare, quello sul gender. Certo, vabbè, ma comunque, un best seller internazionale. Ma non mi interessa se è un best seller o non è un best seller. Allora, della il signor Bitonci, l'errore che ha commesso il signor Bitonci non è quello di aver leso la democrazia. Leggo qui addirittura Alessandro Gassman a sì. Padova si è ufficialmente interrotta la democrazia. Non è vero, amico legato mio, un diritto, no, Alessandro Gassman, sì, ha ragione, interrotta Alessandro. La democrazia. Ma di che stiamo parlando? Della presentazione di libri in una sala. Ha sbagliato Bitonci, ma non per questioni di libertà di opinione, per carità, io lo salvaguardo sempre. Ha sbagliato perché ha fatto una grande pubblicità a un libro e dunque dal suo punto di vista è stato proprio l'errore più clamoroso che potesse fare. Perché se tu non vuoi dare pubblicità a un libro, la prima cosa che devi fare è ignorare dunque se tu permettevi che questa, no, che la presentazione di un libro in una sala del comune, se ne parlava, sì, un trafile. Invece adesso si mobilitano gli scrittori, gli intellettuali, Gad Lerner, poi non so chi, Cecilia Strada, ci vorrebbe una grande marcia gandhiana per la libertà, anzi, la non cultura dire e il diritto, non dire cazzate. A Padova marciamo, non è stata lesa, organizziamoci, compagni e compagni, intellettuali, manifesto, bisogna fare un grande manifesto, vai a cagare, sì, tu di libertà, presidio sotto il comune a Palazzo Moroni, senti, per urlare il nostro no a Bitonci. Vabbè, d'accordo, tu fai questo quello che ti pare, fai tutte le mobilitazioni che vuoi con i tuoi amici, con i tuoi amici intellettuali. Io una voglio semplicemente dire di al di simpaticissimo popolo e bravo Alessandro Gasman che qui non si è affatto interrotta la democrazia. No, ma non c'è da scherzare. C'è semplicemente un sindaco che non sa quello che fa, appunto, perché negare la sala alla presentazione del libro, oltre che essere una cosa stupida, è grave, controproducente proprio per quello in cui crede lui. Ma no, ma è quella ma la realtà. Cosa c'entra questo? Ma non c'è tu nessuna interruzione di democrazia. Ma tu Si possono presentare i libri in 5.000 sale in tutta Italia e anche a Padova. Dunque la democrazia è un discorso che non esiste. Ma chi se ne frega? Il comune è chiuso ai libri della Marzano. Ma chi se ne frega? Il comune è stato chiuso ai libri della Marzano. È ovvio che se tu vai alla Feltrinelli, alla Mondadori, a Palazzo Bubù, lo puoi presentare. Ma Palazzo Moroni è stato chiuso da un sindaco della Lega Nord, Ruspante. Fai il militante, dai. La Marzano è stato interdì, come dicono i miei amici francesi. Ma non ci credi nemmeno tu. Hanno interdì l'accesso alla Marzano. Bitonci lo ha fatto, gravissimo. Marcia di intellettuali, marcia di compagni compagni. In realtà è così, hanno impedito. Fammi sentire Alessandro dalla provincia di Alessandria, va. Alessandro dalla provincia di Alessandria. Ma che avrà da dire Alessandro? Alessandro, dimmi. Buonasera a tutti. Vai. Io volevo solo intervenire sulla questione 8 per 1000, Chiesa Cattolica, con ovviamente con riferimento a quel fatto eclatante che abbiamo Vabbè, visto. Allora? Ma quello che voglio dire è questo, cioè bisogna stare un attimino attenti con l'informazione, perché pensare che tutto il sistema sia così è estremamente riduttivo. Voglio dire, sono... Guardi, Alessandro, se solo un euro dei miei soldi, che comunque nonostante va a finire in puttane, cocaina, preti, lussi, chat, Grinder, froci e quant'altro, a me sinceramente se do i soldi alla Chiesa Cattolica mi rodo il culo che l'8 per 1000 venga utilizzato anche in questo modo, no? Oltre che per la curia e per gli stipendi per gli attici dei cardinali, mi rodo il culo o no? Se fossi uno che dai l'8 per 1000 mi roderebbe il culo, no? Sono d'accordo. E allora basta, ma dai. Dire, ma questo non è tutto il fenomeno. Sono presidi sul territorio, ovunque, sono momenti del sociale. Ma va benissimo, ma siccome hanno una... allora, ma siccome hanno un sacco di... ma siccome già la Chiesa... ma io sono d'accordo che c'è gente che lavora per il prossimo nella Chiesa, figuriamoci se lo nego. Ma guardi, io dico semplicemente una cosa. Ma Alessandro, sono tra i pochi che fanno qualcosa. Alessandro, va benissimo. Secondo me, a mio parere, la Chiesa per queste persone fa anche poco e dovrebbe spendere i suoi denari, che ne ha tanti, tra IOR, proprietà immobiliare e quant'altro, per alimentare chi lavora per gli ultimi e non per mantenere attici da 400 metri quadrati, certo, preti che non fanno una mazza dalla mattina alla sera se non chattare e andare a... Non è il sistema e basta. Ma non dico che è il sistema, a parte che è sbagliato il sistema 8 per 1000 in partenza, perché le ripeto, non vedo perché io, ma se io voglio il sistema istituzionalizzato per favorire una chiesa e le altre chiese, è sbagliato. Io voglio, dalla mia dichiarazione dei redditi deve essere tolta qualsiasi possibilità. Punto. Ma se uno voglio finanziare la religione di preista invece della religione cattolica, vedi un po', voglio finanziare il signor di pre invece di papa Francesco. Dovete fare i conti che ci sono n presidi sul territorio dalle province ai piccoli ma io paesi, sono d'accordo con te Alessandro, è un momento di aggregazione, ho capito, ma questo nessuno lo mette in dubbio, ma nessuno lo mette in dubbio, però i soldi, che sono sempre la cosa più importante, evidentemente vanno gestiti meglio. Primo, secondo, l'otto per mille è un sistema distorto che va abolito. Terzo, a mio parere, quello sai, va bene, allora no, io li do all'altro partito, ma diciamo, tu dai a chi ti pare, per me è una follia darli una religione in generale, una follia, però fallo a loro. Cioè, poi li ho date anche i partiti qualche volta. Pensate come sei messo. Sì, Vito certo. Da Torino, vai. Grazie Alessandro, Vito. Li do alla comunità ebraica, ovviamente. Mamma mia, Vito Unione, da Torino, chissà come vengono usati. Ciao. Unione Comunità Ebraica Italiana. Molto Vito, sì, per il culto, per Vito, vai. Lo so, conosco perfettamente la situazione. Sì. Allora, senti, volevo chiedere al tuo amico Parenzi, no? Parenzo, no Parenzi è quello degli vabbè, Parenzi, Parenzo, ascolta. Ma non è la stessa cosa, cioè uno si chiama Parenzo è come se tu mi dicessi... Non è uguale anche dal punto di vista del reddito, no, ma questa è un'altra Parenzi polemica. Parenzi vuol dire che sono tanti, invece Parenzo uno solo. Esatto. Senti, volevo chiedere a lui, e la condanna che farebbe, che darebbe a quei due extracomunitari che hanno... massacrato quelle due vecchie. Carcere. Dal momento che lui li difende. 20 anni, non lo so, adesso per avere una massacra un omicidio sarà 25 anni almeno. Se massacra una vecchietta, per me è come minimo l'ergastolo. 25 anni, quello che prevede allora, il codice, insomma. No, il codice, quelle tra 10 anni sono via. Allora, questo è un altro dice lei, quello che prevede il codice. Hanno fatto la rapina. Altre quello... l'ergastolo perché hanno fatto l'omicidio. Sì, se è volontario, allora, certo, c'è il codice, sono dentro del merito, ma non lo so. Sarebbero da uccidere subito quando si vogliono introdurre in casa. Cioè, te ne rendi conto che questa gente sono malvagie? Sono certo. Una cosa incredibile. E infatti vanno puniti. Con due vecchiette. Cioè, come si... Allora, è tutta uomo... roba scontata quella che mi sta dicendo. Non capisco perché polemizza con me. No, contesta, fermi. Ottima trasmissione, sempre la visione. State ascoltando un programma offerto da Huawei, make it possible. La Zanzara. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Sì, siamo qui 800 24 00 24. Berlusconi sta parlando porta a porta, ha detto che nel patto del Nazareno c'era la modifica della legge Severino, figuriamoci la polemica adesso su Renzi eccetera eccetera, che poi successivamente ha rotto il patto del Nazareno, anzi no, Berlusconi ha rotto il patto del Nazareno, poi ancora ha avuto un lapsus, Renzi porterà la grinta nel centrodestra, si è un po' confuso, bene, voleva dire. E poi ha detto di Alfano che andrà assolutamente con il Partito Democratico, ma questa non è una notizia perché Alfano quasi certamente, a meno che non succede un gran casino nel centrodestra, andrà con il Partito Democratico. E andiamo a dove andiamo? Andiamo a Giovanni Napoli, vai. Pronto? Dimmi, posso, Giovanni. Posso fare una domanda? Fai tutte le domande che vuoi, dimmi. Ma sta buste munnezze parenti, chi ce l'ha il microfono a mano? La busta di la traduco da napoletano. Sì, sì. La busta di mondezza, di immondizia di Parenzo, chi gli ha dato il microfono? Comunisti scemi. Stai tranquillo, stai calmo, il microfono, non sape niente, scusi Giovanni, da quale enoteca chiama? Da quale ignorante? Da quale botte di vino chiama? Che c'è caduto dentro, forse? C'è caduto dentro una botte di vino. Quando a Napoli stava pieno di munnezze, tu. Giovanni, da quale zona infermieristica? Da quale ASL chiama? Dal vomero, munnezze. Dall'ospedale del vomero, benissimo. Ospedale del vomero, ottimo. L'ospedale tiene in capo. L'ospedale tieni. Tu tieni la sabbia dei. Tu tieni la sabbia dei capri in capo. Zingari come te. State tranquilli. No, tieni la sabbia dei capri in capo. I faraglioni in capo. Tieni. C'hai tutta la pietra in capo. Fanno bene che ti danno fuoco. Ma chi dà fuoco a nessuno? Zingari quando fanno qualcosa. Ecco qua, dal vomero chiama questo. Ma chi? Che ce la fa pure con Parenzo? No, no, che innanzi... non merita di avere un microfono in mano. Vabbè, Giovanni, questo, non lo questo non lo decidi tu. Scusa. È come dare una P38 in mano a un bambino. È come dare una P38 in mano a un bambino. Una P38. Le metafore. Però le metafore non è male. Del napoletano. La metafora non è male. Però, interessante le metafore di quel signore del Vomero. Giovanni, ma dove ti trovi? Che sento un po' lontano. Ti sento lontano come voce. Pure sei a Napoli. Sto a casa. Che telefono stai chiamando? No, da quello della prigione. Da quello della prigione, scusa. Certo, Poggio Reale. Dal telefono di Poggio Reale. È evidente. Tu sei uno scema proprio. Tu stai chiamando dal telefono di Poggio Reale. Questa però è la vita, è la realtà, capito? No, non è la realtà. Non manco per niente. Tu sei una vergogna nazionale. Addirittura una vergogna nazionale. Dovrebbe fare uno sciopero per te. Guarda, stai scendendo. Beh, ce ne sono già tanti di sciopero. Uno sciopero per Parenzo è un'idea che puoi dare a Landini. Il microfono di mano, che pericoloso tu. Ma perché, che ha detto? Sti quattro zingari. Ma i zingari ci sono a Napoli, Rommi, signori Rommi. Tu tieni e zoccole del cervello, topi vuol dire a Napoli. Non ho capito, scusa. Ti spiego come funziona. Dimmi come funziona. No, ma funziona, sono interessato a questa cosa. Se a Napoli uno zingaro fa un reato, sì, la gente viene a sapere il campo rom di provenienza. Vanno là e si danno fuoco. Questo è un sistema. Ho capito. Hai capito? Però è anche curioso, perché per esempio i rom, bisognerebbe sapere. Ma che stai facendo, scusa? Mi sto soffiando il naso. Tanto non mi sembra che dica cose molto rilevanti. No, quindi mi soffio il naso. Ma tu devi appassionarti ai casi umani. Ma perché non ti appassioni? Non ti appassioni umani più ai casi umani, cioè al cervello delle persone. No, ma casi umani. Più umane Parenzo. Quello merita comprensione, Parenzo. Ma volete finire? Però Giovanni, scusami un attimo. Dimmi tutto. Sì, amici sono loro. No, ma non sono amico, sto cercando di interloquire con Giovanni da Napoli. Ma che dice bene, allora voglio capire da Giovanni una cosa. Qual è il tasso di criminalità dei rom a Napoli? Perché è curioso. Zero. Cioè, come mai? I rom non commettono reati a Napoli. No, cercano solo l'elemosina in Napoli, perché l'Italia non ha la testa, e fanno bene. Cioè, tu dici, lo dovrebbero fare in tutta Italia. Tu dici che se un rom, che ne so, vanno a fare un furto in qualche casa, furto importante. È successo. E rom... danno fuoco il campo rom. Ah, così, proprio secco. Subito, senza non mica vanno a dire tu cosa dovevi fare. Ma non sarebbe il caso di fare la denuncia di solito alla polizia quando ti rubano in casa, no? E che lo fa? La polizia dice lo pigliamo, lo mettiamo dentro, dopo mezz'ora va a rubare in un'altra casa. E allora bruciamo campo e lo mettono a Roma, a Milano e a Torino. Che lo fanno pure a Milano e a Torino? Se ne vanno le donne da Romani, hai capito? Lei, scusi, di che cosa si occupa in genere durante la giornata, diciamo? Va bene, macci, tutto ma di che cosa? Ma buttati, no, ma caro Giovanni, buttati te. È solo per capire, no, Giovanni, però di che cosa in questo si caso occupa? In questo caso Parenzo voleva capire, oggettivamente sì, voleva di capire. Di che cosa si occupa lei? Che cosa fai? Fa il notaio, diciamo, la tua attività? No, notaio, non credo. Perché io c'ho un negozio. No? Ha un negozio. Ha un negozio, benissimo. Una professione assolutamente legittima, una professione assolutamente rispettabile. Ha un negozio di che cosa? Di armi. Scusate, ma voi la parola a Parenzo, non chiamate un psicologo, ma non lasciate domande a me, io che faccio? Ciao, ma no, volevo capire, c'ha un negozio di cosa? Di armi, giocattoli. Di roba? Di giocattoli. Giocattoli, però. Ma mi sto facendo costruire pure a te come giocattoli. Di giocattoli, ho capito. Beh, lo vendi molto, devi darmi i diritti allora sì, se lo fai. Faccio fare pure la statua a San Gregorio Armeno domattina. Beh, sarebbe un onore. Sarebbe un onore lì, finire nel presepe. Tu potresti finire nel presepe dei mentecatti invece. Ma tu dici tutte cose, ma ti rendi conto che ti accende? Ma ti rendi conto? Senti, dove si trova questo negozio di roba rubata, evidentemente? Vergogna, dove si trova il negozio? Vergogna. Ma la roba che vendi non è... Ma tu ti hai cacciato pure i cervelli. Ma è ricco. Tu devi comprare due cervelli. Cencelli, mi sta chiamando in diretta il signor Cencelli, Chi è il signor Cencelli? Cencelli, il dottor Cencelli, quello del manuale. Il cervello, due paia di cervelli. No, Cencelli, grande Cencelli mi sta chiamando in diretta ora. Quale cervello? Se Giovanni, io ti amo, ti vorrei, però... qui tutta la puntata. Ma caro, scusi, sono... Basta che chiudi il microfono a questo. Questo è un bambino con una pistola in mano, con una mitraglietta in mano. Ma tu ce l'hai le pistole nel negozio? Ma no, io devo dire il pistola le sta usando un parente, capo però, antichiodi, a parente ci vogliono i chiodi. Ma non si fa così però, Giovanni, questo è pericoloso. Sì, non ho capito cosa ha detto questo. C'è un sacco di gente pericolosa in giro, io bisogna spararti i chiodi in testa adesso, questo è esagerato. Chiodi in testa, ho capito. Apparenza, sì, no, ma era chiaro, non a crociare fila, siete amici, figuriamoci. Cioè, amici. Sì, beh, si capisce a livello culturale. Fate Natale insieme? No, chiedo. Fate mangiare il capitone insieme a Natale con Cruciani. Tu sei un'istigazione alla scemenza. Alla scemenza, certo. Ma lei la paga la merce che vende, sì? La merce che vende nel negozietto lì, nella cantina, nel sottoscala, la paga la merce o no lei? No, sono 300 metri quadrati il negozio, bene. Ah, bravo. Tutto regolare, vero? O mandiamo la finanza? Gli scontrini li fai? Ma li fai gli scontrini? Li fai gli scontrini almeno, Giovanni? Niente di meno, sempre. Devi fare gli scontrini, Giovanni. Sì, pure a te. Devi fare gli scontrini quando vendi o Playmobil. Devi fare gli scontrini. Ma capito? Devi dire, non è che sei ridico. Devi fare gli scontrini. Vabbè, Giovanni, ti saluto, un abbraccio, ciao. Ciao, ciao, e tacchissi, sempre. Getta questo velocemente, questa è la traduzione. Gli attacchisti, ambres ambres. Io so tradurre da quasi tutti i dialetti. Traduzione. Capisci che hai dimestichezza con la persona, con queste personalità. No, ho dimestichezza con la vita, è una cosa che con la vita. Ho dimestichezza con la vita. Eccellenza. No, ma con la vita, ho dimestichezza, è diverso. Federico dalla provincia di Frosinone. Sì, buonasera a tutti. Vorrei fare una segnalazione, una coincidenza più che altro per quanto riguarda Don Vittorelli, spendendo tutti questi scandali che orgi, sì. Cocaina, ecstasy, che lui tempo fa, ex governatore del Lazio, sì. Piero Marrazzo. Marrazzo fu ospitato, addirittura era amico di proprio amico. Cioè a te ti viene il sospetto che ci fosse tra i due qualche intesa di fra loro due, però sull'abbazia tutto tanto quel, cioè tu dici che cosa succedeva in quell'abbazia, no? Cioè Marrazzo dallo scandalo trans va nel monastero dei Benedettini dove c'è il signore che poi a sua volta si è scoperto che utilizzava i soldi dell'8 per mille, insomma, oltre ad aver distratto fondi eccetera, frequentava anche chat, alberghi, lusso, cocaina, estasi e quant'altro, capito? Non lo so, adesso questo, amico mio, è un collegamento che stai facendo tu. Si sa semplicemente che Marrazzo, dopo la storia dei trans, come no, è andato lì, era amico di questo signore. Vabbè, c'è di male, mica sapeva. Non lo so quello che sapeva, è abbastanza curiosa questa cosa, no? Signor Marrazzo, dopo lo scandalo trans barra cocaina, è transitato dall'abbazia di questo signore. Era parte lesa. Ma sì, ma è d'accordo, ma comunque sarà curiosa come cosa da rilevare o no? Oppure, ma che mestiere fai tu? Scusa, che mestiere fai? Curioso. Ma non lo so, non è curioso. Vabbè, d'accordo. No, ma certo pensa, che è curioso, pensa se bene, ci fosse stato uno di centrodestra che ha con no, ma a me non problem... interessa centro-sinistra o centrodestra. Ma non puoi non dire che è curiosa questa cosa. Che Marrazzo, dopo la vicenda dei trans e della cocaina, è andato in quel. Era amico di questo signore, adesso coinvolto in uno scandalo. No, dico... è andato in quel monastero lì. Sì. A me non me ne frega niente. No, niente, non è successo nulla. Dire che allora quella storia non ho detto un seguito dentro quel mura. Ma io non ho detto niente, ma se sarà curioso o no? Ho capito, non è curioso. Ma posso semplicemente aggiungere che avendolo visto, incontrato nei giorni post scandalo. Vabbè, ma tu puoi avere visto, incontrato, non è che ti ha raccontato quello che succedeva in quel convento. No, non ma ti posso dire, vedendolo anche sofferente e distrutto da tutta quella ma uno storia. Uno è sofferente e distrutto, è normale che sia sofferente e distrutto. Beh, anche i grandi criminali, penso, non voglio dire che è un grande criminale, assolutamente. Non penso tutti che sono si sia messo nella condizione di essere, come dire, ritanato in altri contesti, quindi non credo. Ma io non lo link, so, però. Ma non c'è nessun collegamento. Scusami, siccome è un amico tuo, un governatore, una persona che hai conosciuto, amico un ex mio, politico, non lo vedo cioè... più, beh, inviato. Vabbè, d'accordo, a allora non si non possono nessun... fare collegamenti. Perdoniamo, si possono fare, ma io non ho semplicemente che l'ho visto talmente distrutto e personalmente vabbè, persone fisicamente e allora? E allora che c'entra? E questo mi fa pensare. Ah, no, ti fa pensare. Ti mi fa pensare che essendo totalmente distrutto da questa vicenda, non è che si è messo in un contesto. Ma io non lo so, io ho semplicemente cui... detto che è curioso dicendo. Il fatto che vabbè, dai, andiamo signor Marrazzo, dopo quella vicenda questo che riguarda trans e cocaina, è andato nel convento dove avanti. Poi c'è questo signore coinvolto in uno scandalo di droga, estasi, frocismi vari, frocismi in senso, come dire, di frequentazione, di tipo di frequentazione, ciao. Come andiamo? Ciao, bene, tutto bene. Che hai fatto? Che hai combinato? Che disastro hai combinato? No, sono bravissimo. Come bravissimo? È un periodo che sono bravissimo. È un periodo che non combini casino? Vieni no. casino, vieni, fai casino solo quando vieni da noi, praticamente. Combini casini solo quando vieni qui alla Zanzara. Vabbè, insomma, avete capito, Gio Formaggio, sindaco di Albettone, con noi. Allora, caro Gio, sei andato ai funerali di Mattielli? Sindaco. Sei andato ai funerali di Mattielli, in prima fila. Dovevo portare l'ultimo saluto a un bravo italiano. Signor Hermes Mattielli. Hermes Mattielli. Ma è vero che Mattielli. La sua eredità, quella di Mattielli, andrà ai Rom? Allora, questo è quello che dicono i giudici, no? Hanno detto che anche la casa andrà ai Rom. Io ho fatto una proposta di abbatterla. Beh, no, è rimasta solo la casa. È rimasta la casa, quindi, sì. Se noi abbattiamo la casa, i Rom ereditano meno, perché lo Stato metterà all'asta quei pochi averi che aveva il povero Hermes e risarcirà i Rom. Quindi, abbattendo la casa, resterà solo un pezzettino di terra. Invece di 135.000 euro, magari ce ne diamo solo 10.000. E quindi limitiamo che questi possano delinquere ancora di più, perché più soldi gli diamo, più delinquenti diventano sti zingari del cazzo. Tu stai dicendo meglio abbattere la casa di Hermes che darla ai ladri, questa è la sostanza. Ma immediatamente. Spero lo faccia qualcuno, perché io sono un sorvegliato speciale, quindi magari mi arrestano prima, però qualcuno di notte passando. Ma come ti arresta lei direttamente? Come ti arresta? Con uno scavatore, con una pala, con qualcosa, gli diano un bello spintone. Un reato, quello che lei sta istigando a commettere un reato. Anche gli zingari hanno fatto un reato andando a rubare la povero. Certo, cioè, sicuramente. Quindi almeno si prende la responsabilità di commetterlo lei il reato, anziché di istigare altri poveri cristi che perché magari. Perché non vai tu ad abbatterla direttamente? Ma dai, allora, se la cosa funzionasse bene, no? È che ormai l'ho detto, io ho lanciato l'idea, adesso sono un sorvegliato speciale, quindi spero che qualcuno prenda il balzo l'idea e dica: visto che io non sono sorvegliato come Gio Formaggio, mi prendo la briga di passare con un camion di notte e andargli addosso. Basta, può essere anche un camionista che esce di strada sbadatamente e la butta giù. Ma perché Parenzo vuoi chiamare sempre il magistrato? Chiamo il BM bene in casa, lo chiamo. Ma perché vuoi chiamare sempre il BM bene in casa? Perché non è possibile. Vuole chiamare sempre il magistrato, chiama chi vuoi. Chiama il magistrato in diretta. Vabbè, guarda. Chi lo potrebbe fare questo lavoretto? Chi lo potrebbe fare questo lavoretto? Abbattere la casa. Chiunque. Quanto ci vuole ad abbattere questa casa? E non farebbe un reato per il 99% degli italiani. Poi c'è l'1% come Parenzo che la pensa alla cazzo e quindi. Scusami un attimo, Gio. Sono con il magistrato. Dottor Benincasa, scusi, il Gio Formaggio ha appena denunziato. Ma che PM? Dov'è il PM Benincasa? Mi trovano in municipio. In municipio la trovano. Possiamo aprire subito un fascicolo per cortesia, dottor Benincasa? Aspetta un attimo. Allora, stai parlando col PM Benincasa, che è il PM dove? In che località è? Il PM Benincasa esercita nella località di Prati, su Roma, però adesso cioè, Roma, è un PM della Procura di Roma, è un PM Benincasa, dottor Benincasa, sì. Dottore? Penso che il dottore Benincasa abbia qualcos'altro da fare che venire da Gio Formaggio. No, vai, può trasferire il fascicolo. La Vicenza. Bene come criminalità. Può trasferire il fascicolo a Vicenza. Dottor Benincasa? Ecco, lo senti? È in diretta. Dottore, lo può trasferire il fascicolo a Vicenza? Lo trasferiamo immediatamente a Vicenza. Allora, grazie dottore. La notizia di reato è questa, no? La notizia di reato è che Gio Formaggio, secondo Parenzo, io ovviamente non sono d'accordo. Secondo Parenzo, Gio Formaggio invitando qualcuno ad andare lì ad abbattere la casa del signor Mattielli, praticamente sta istigando al reato. Allora, ha chiamato il PM Benincasa della Procura di Roma, il quale PM Benincasa ha acquisito agli atti la cassetta, la video, come direbbe Berlusconi, la registrazione di questa il cosa. Mangianastri, sì, e adesso la passa poi ai suoi colleghi di Vicenza, un trasferimento di cosa. Credo che Formaggio sia preoccupato da questa cosa, no? Assolutamente no. Perché poi se un magistrato da retta a Parenzo siamo messi bene in Italia, no? Capiamo perché la giustizia deve essere riformata. Però a prescindere da Parenzo, tu stai dicendo una cosa: che qualcuno dovrebbe andare distruggere la casa di Mattielli. Pur di non dare i soldi a dei bastardi zingari che sono andati nella sua proprietà di notte per rubargli quello che aveva. Aveva soltanto un po' di ferro vecchio e una pensione di 100 pa- passa euro, ma cosa c'entra? Al mese. Però scusami, Gio, scusami un attimo, i giudici però hanno dimostrato che questo qua è infierito, li ha rincorsi, mi sembra. Ma ha fatto bene, doveva ammazzarli. Cioè tu dici che non cosa te ne frega. Cosa vai a rubare a casa degli altri? Ma stiamo scherzando. Dunque, ma... il fatto che li abbia rincorsi, eccetera, varie sentenze, ma a te non te ne può fregare di meno. Voi dovevate essere presenti al funerale e parlare con la gente. Io non sono neanche entrato in giro. Lei è gente. Un criminale per essere andato al funerale. Lei è un perché? Criminale. Perché? È andato al funerale di una persona, ha strumentalizzato politicamente. Questo qui è morto due volte. No. Io ce l'avevo è morto parlato. Due volte aspetta, sta persona. Caro è incredibile. Parenzo, tu che fai incredibile sei bravo sto sindaco. A fare il culattone con il culo degli altri. Sto sindaco della minchia. Amici che hanno comprato la maglietta di stacchio, abbiamo pagato quel funerale di stacchio. Lì. Bello mio. La maglietta di stacchio. Abbiamo pagato non ho capito perché non può andare al funerale di Mattia? Ma perché ha trasformato in uno show un dramma. Da una parte c'è il dramma di Mattielli. Io non ho trasformato in uno ma show niente. Vergogna inaudita. Sono stato inaudita. Anzi, mi sono spostato quando i venetisti hanno cominciato a fare casino perché i al funerale venetisti. Bisogna andare e fare silenzio. Ma mica è un Luna Park quello lì, è un funerale, non è il circo Barnum di formaggio e quell'altro deputato europeo lì, guarda, come si chiama lì, allora, buon anno. Tu non c'eri, no? Avete ma certo che non c'era. Ma funerale, stai offendendo io, il funerale di una persona. Ma non vado a un funerale di uno che non conosco io, ma che scherziamo? Fammi sentire, che dicevi Gio? Allora amici, innanzitutto sono, io Hermes, al contrario di tanti altri, lo conoscevo. Sì. Gli avevo parlato fino a poco prima che lo ricoverassero. Sì. Avevamo parlato di politica, avevamo parlato di che cazzo di politiche sulla sicurezza e sulla legittima difesa e sull'ammanettamento delle forze dell'ordine. Non era molto, lucido di recente, signor Mattielli, Ah, ma cazzo, è anche morto. Ma no, aspetta, non era lucido, era lui così. Era una persona che viveva in montagna. Ma a me lo dici, ma Hermes Mattielli tutta la vita. Stava da solo, ecco. La strada che faceva era casa sua, deposito e raccogliere un po' di ferro vecchio. E questi bastardi sono andati a casa sua di notte. Adesso, tu sai che adesso questi qua praticamente per i danni subiti non possono lavorare questi signori zingari. Questi. Ma non lavoravano neanche prima. Quando è che hai visto uno zingaro lavorare? Quando? Cioè i zingari lavorano mai, non lavorano mai. Non ce n'è neanche uno. Non questo, c'è neanche uno allora, che lavora. Questo può essere vero. Quando tu hai mai visto un formaggio fare il sindaco? Vabbè, quando tu hai mai visto un formaggio? Stai insultando il cognome quando di una persona. Quando è che hai mai visto un formaggio fare il sindaco? Se è vero, e può essere vero, che molti rom magari non lui dice manco uno si dedicano altro. Cioè sono tutti ladri, sono tutti ladri secondo te. Tu hai mai visto un formaggio fare il sindaco? Gio, sono tutti ladri, secondo te i zingari? Una gran parte. Cioè 99%, quanto dici? Beh, non lo so la percentuale, però sopra il 50, cari. Vabbè, sopra il 50, quello possiamo dire anche il 50% dei politici, da un certo punto di vista. Ma ascoltami, allora tu allora, fermo un attimo che c'è la pubblicità, hai mai poi visto un campo rom o dei rom che lavorano onestamente facendo fatture, scontrini, cazzi, eccetera. Devo dire che nessuno. No, però non ho a che fare direttamente. Siamo coglioni noi che paghiamo le tasse, siamo dei coglioni. Allora, Gio, un attimo solo, poi andiamo a trattare della vicenda molto seria della morte di questa signora di 80 e passa anni vicino a Ferrara, perché voglio una tua, come dire, moderatissima opinione sul caso. Ma come ti piace parlare di sesso a te? Io già te vedo che torni a casa e ti fai la seghetta. Ma io lo vedo lì. La Zanzara. I know you've been up running. When you've done all your running, run to me. Se lei avesse sparecchiato qualche piatto, forse sarebbe anche un po' più educato. Perché un altro suo grosso problema è che è un gran maleducato. My sweet Louise. Allora ragazzi, abbiamo con noi ancora Gio Formaggio, sindaco di Albettone, per parlare di tutti i casi di cronaca di questi giorni, caro Parenzo. Ma perché si occupa di cronaca nera lui? È un sindaco di una città del nord, sindaco con il fucile, il sindaco che si occupa ma di sicurezza. Scrive sui giornali, cosa fa il giornalista di non è importante scrivere sui giornali, i giornali chiedo, non contano un cazzo. No, dai. Chiedo, ma si occupa di cronaca nera, cosa fa? Non mi fa quarto grado? Lavora a quarto grado con è Luzzi? È un rappresentante delle istituzioni. Lavora diciamo. Chi l'ha visto? Lavoro e sono una persona normale. male a differenza di qualcun altro. No, no, ma per carità di Dio, Formaggio, ma, si occupa di ma che cosa farebbe? Che cosa farebbe Gio che cosa farebbe Gio Formaggio ai due signori romeni che hanno massacrato di botte l'anziana signora di Ferrara? Gli darei impasto ai nipoti con delle mazze da baseball. No, aspetta, stiamo molto calmi. Impasto ai nipoti, ai nipoti. Allora, se fosse stata mia nonna, no? Sì, sì, sì. Mi spiego. Se la povera signora, pace all'anima sua, sì, massacrata anche dallo Stato che permette a sti figli di puttana di restare in Italia, perché sì, bisognerebbe mandarli via. Sindaco di Fratelli d'Italia, abbastonate, sì, certo, sindaco di Fratelli d'Italia. No, ripeto, e ce ne fossero ancora di così. Allora? Allora, ti spiego, gli darei, se fossi mia nonna vorrei che questi due sì, bastardi sì, venissero dati a me, che sono sì, il nipote, sì, e me li lasciassero per una giornata in Arabia Saudita. E cosa accadrebbe? Certo. In Arabia Saudita si sta molto bene, perché io per lavoro vado spesso in Arabia Saudita e non succedono queste puttanate che succedono qua. Sì, però, le donne non guidano in Arabia Saudita perché lascia stare le donne che non guidano e tutte queste robe qua. In Arabia Saudita ci sono delle leggi, ci sono tante leggi che non condivido, ma quelle sulla sicurezza funzionano più che in Italia. Non sono leggi sulla sicurezza, tagliano la mano. Tagliano la mano. Ma cosa vuoi fare ai ladri? Gli diamo una fetta i panettoni che fra poco è Natale, ma gli diamo la cioccolata con i panettoni ai ladri. Ma guarda, i manganelli d'Italia è incredibile. Ma voi te vorresti tagliare la mano ai ladri, Gio? Ma bisognerebbe spaccargli le gambe, ma cosa vuoi fargli? Ma ascolta, sta funzionando, la giustizia in Italia? Dimmelo. Ma quello no, d'accordo, ma che c'entra? Andate a dirlo alla nipote, andate a dirlo alla figlia che è ancora in ospedale, ma della certo, signora che è morta. Ma cosa vuol dire? Andate a dirglielo, cari miei. Che è in ospedale? Perché si sentirebbe risarcita se gli spaccassero le gambe. Si sentirebbe risarcita. Continuiamo a portare dentro rumeni, albanesi, slavi, marocchini. E avanti, ma non me ne frega un cazzo che siano in Europa o vengono qua per lavorare, sono fuori dai coglioni. Scusami, ma stiamo scherzando. Gio, ma cosa fai il Natale con Formaggio? Scusami, Gio, lo chiamo Gio come chiama il cappone ripieno con questo non qua. Non c'è nessuno di questi rompi coglioni qua, e quindi non c'è neanche nella cantina geografica Albettone. Non lo trovo. Bravissimo. Non so dove allora, sia, fuori dalle balle. Ti stavo aspettando, dovevi fare la lista, Parenzo, te lo ricordo ogni volta. Non dovevi venire con i rom. La lista roba perché non fai la lista? Non vieni? Allora, sei un bugiardo perché hai detto che sono sei mesi che avevi detto che venivi qua con i rom ad Albettone e io non ti arriverò, ho visto. Arriverò. Vabbè, capito, però devi dire quello, devi fare quello che dici, Parenzo. Certo, perché sennò, ci mancherebbe altro. Però scusa, Formaggio, io non ho capito. La prima cosa che hai detto, io a questi due signori rumeni li darei in pasto ai nipoti. Non so che cosa hai detto. Ma stiamo scherzando? Ma come sì? Cioè li metteresti dentro una specie di fossa, diciamo di... No, li metterai in una stanza con questi qua, con i nipoti. C'è anche l'impiccagione... Che li diano pure a me, anche se non era mia nonna. C'è anche come fosse mia nonna. Che li diano a me. Cioè li ammazzeresti con le due mani tu? No, gli spaccherai le gambe intanto, per cominciare, e dopo li rieducherei. Ma l'impiccagione in piazza no? Qualcuno l'ha proposto ma oggi? No, impiccagione in piazza, dobbiamo rieducarli. Ma non si rieducano se li lasci in carcere 3 giorni e dopo escono... E tanto non succede assolutamente niente. Sputano in faccia ai poliziotti. Perché allora il problema è che si risolve tutto il problema della sicurezza in Italia. Mettete 100 tra poliziotti e carabinieri dentro una palestra e dopo 10 ore esce la legge più bella sulla sicurezza. Sì. Però non i stellati. Gente che va in strada, poliziotti e carabinieri di strada. Sì. E facciamo fare le leggi sulla sicurezza ad Alfano e questo è il problema dell'Italia. Questo adesso non ti allargare dai, dove vogliamo andare? Però tu la prima cosa che faresti è spaccargli le gambe a questi qua. Sì, perché devono imparare, perché questa gente qua non impara. Ma la galera non serve, non impara mai. La galera no, la galera non sa, allora, non basta la galera. Lo zingaro che è andato a rubare da Stacchio, che ci ha lasciato le penne. Aveva già fatto una montagna di rapine e una montagna di furti. Allora, non è che mettendolo in carcere 2 settimane lo si rieduca, bisogna o ammazzarlo o spaccargli le gambe. Fortunatamente questo l'abbiamo ammazzato. Sindaco, non l'abbiamo fortunatamente la gente non è l'abbiamo la non gente hai fatto è nulla incazzata. Tu per fortuna non hai fatto nulla, istighi solo a fare degli omicidi e dei reati. Non hai fatto niente, stai lì nella tua poltrona di sindaco in un comune che non conosce un cazzo di nessuno. Bravo, stai lì in un fortino assediato con i mitra facendo finta di costruire dei muri che non sono muri e istighi la persona a commettere reati. Questo guarda, fai sindaco allora, di Fratelli sai qual d'Italia è il problema? Questo è fai che tu da uno come te, no? Da uno come te che li difendi, da uno come te che li difende, non verranno mai. Formaggio, è quello il sindaco. Ma se sfortunatamente ti capitasse qualcosa che venissero a casa tua, vedresti, la penseresti diversamente, perché finché li difendi sarai il paladino dei delinquenti. Paladino con una L, però, ma non importa anche quella, ormai la grammatica. Va bene, Gio, a presto, ciao. Tutto, ciao. Paladino, una L. Sai dove devi metterla la L? Non paladino, paladino. Ciao, Gio, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Donato Varese, vai. Salve, salve. Ah, Donato. Oh, Donato, il grandissimo Donato, Parenzo. Grande titolarista della Zanzara, Donato da Varese. Vabbè. Vai, allora, volevo dire un paio di cose, sì, con calma, vai. Un paio di calma. Prima cosa, vuol dire le persone quando dicono che la casa è sacra. Sì. Dicono la verità, così, proprio dicono la verità, ma io non sono dell'idea che la casa debba essere sacra. Io sono convinto che il paese deve essere sacro. Non deve essere una stalla dove entrano dei... Ma guarda, io non voglio nemmeno parlare di questo fatto, perché già mi sono speso abbastanza sul fatto che le fecce, i criminali vengono a ammazzare i nostri parenti in casa, ci uccidono. Su questo io già ho speso tanto, ma quello che vorrei parlare... Hai già dato su questo. Ho già dato, la gente purtroppo non ha ancora capito quanto noi siamo. Poi vorrei sapere, i profughi? Sì. Io sono dell'idea che i profughi in Italia devono essere cristiani. Come i profughi devono essere? Nel mio paese devono arrivare i profughi cristiani, non islamici. Non islamici. Come si fa a scegliere, scusami? Si sceglie. Allora, tu sei un cristiano o sei un islamico? Diciamo, tu adori Allah o adori il Dio della Bibbia? Lui mi dice: io adoro Allah. Allora torniti dove c'è Allah. In Europa non c'è posto per Allah, perché fra poco ci saranno fiumi di sangue. Ma era meno di questo vorrei parlare. No, io l'ha detto. Eh? No, io avanti, professore. Vorrei parlare di Renzi, quell'antivermifugo di merda. Sì, ecco un altro. Vermifugo di merda. Che mamma mia, quanto mi piacerebbe che lo querelasse. Quanto. Ma io aspetto questo. Io aspetto che qualcuno mi quereli per riscattare la vita di migliaia e migliaia di italiani. Vabbè, che ha fatto morti. Renzi? Adesso che ha fatto Renzi? Questo porco maledetto, schifoso, indegno e illegittimo, sì? Questo sporco maledetto, se noi soltanto 15 anni fa qualcuno ci avesse detto che fosse uscito un burattino, no? Sì. E che ci avesse condannato con un canone obbligatorio sulla bolletta dell'Ene, qualcuno avrebbe detto: qua siamo nel mondo della fantascienza. Questo porco maledetto adesso mi impone di pagare il canone con la pubblicità. Vuol dire che mi fa andare a puttane con un preservativo bucato. No, spiegami questa metafora, non l'ho capita, Donato, scusami. Non si può pagare, non guardare una Rai con un sacco di pubblicità e in più mi chiede anche il pizzo. Ah, ma il canone... Tu non vuoi pagare il canone. Per vedere su Rai 2 chi è quel porco, come cazzo si chiama? Chi? Quel mostruoso pupazzo di segatura, l'imbottito di cocaina lì. Ma chi? No, ferma, chi non che si muove caricato con le batterie al litro, come si chiama? J-Ax, quella faccia da merda. No. Che meraviglia se lo querela anche J-Ax. Ma che meraviglia. No, hai detto una cosa, ho imbottito di cocaina. Io devo pagare il canone. Ma tu devi pagare quella merda lì. Ma tu devi pagare il servizio sanitario. Io devo pagare il canone. No, però scusa, il servizio sanitario nazionale. Hai detto una cosa, imbottito di cocaina. Io non sono d'accordo, cioè qui. Ma te credo. Ma guarda gli occhi. Quello è già morto 30 anni fa. Quello cammina soltanto perché autonomamente non so di quale altro spirito maligno. Io dovrei pagare il canone per il mangiamerda di Morandi, per la Ferilli. Che c'entra Morandi adesso? Perché Morandi è famoso che mangia mai. No, non si possono dire queste cose, Donato. Ma vai in internet, ma si parla. Poi ma non si può dire internet. Una cosa di questo tipo. Allora, dai. Se io dico che Cruciani si fa inculare da quel porco di Parenzo, no? Ma no, ho capito. Cruciani, ti prendi una bella querela per diffamazione. Caro Donato, sì. Su quali basi si poggia questa tua affermazione? Esatto. Morandi, ormai da anni si deve... No, però adesso non andiamo su Morandi. Non andiamo su Morandi, queste storie assurde, dai, che si dicono da anni che non sono vere, dai. Benissimo. Che stavi dicendo? Stavi parlando della Rai. Non vuoi pagare la Rai? Io non voglio pagare il canone. Non, poi la rete è fatta di gente di sinistra. Io devo pagare il cano per vedere tutto quel bordello di sinistra? Vabbè, ho capito, c'è gente di sinistra, c'è gente no, non di sinistra. No, c'è gente soprattutto... Guarda, che io ho tentato mille volte per entrare in Rai. A che fare? A che fare? Cosa, scusi? A suonare. Che devo fare? A suonare, a fare quello che mi facevano fare, no? È un'azienda seria, ancora l'ha rifiutata. Perché suoni? Questo dimostra, questa è l'unica notizia che dimostra che la Rai è ancora un'azienda seria, vedi? Sono il più grande compositore della terra. Più grande. Più grande, vedi che però no, qualcosa di buono in questo paese c'è, però vedi, cioè, volte io cioè? Perché uno dice beh, la Rai effettivamente c'ha mille problemi, una cosa buona la fa, cioè respingere Donato, beh, dice. No, che non si dica che non c'è un minimo di filtro, non dico molto ma un minimo, un minimo, un minimo senza controllo sanitario, un minimo. Un minimo di filtro c'è in quell'azienda, un minimo. Aspetta, non dico tanto, non pubblicità dico tanto, e poi torniamo pubblicità, non dico tanto, pubblicità, non dico tanto, e poi torniamo pubblicità. Minimo, un minimo di filtro. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Io sono dell'idea che i profughi in Italia devono essere cristiani. Nel mio paese devono arrivare i profughi cristiani, non islamici. Allora ragazzi, Red Ronnie mi ha mandato un avvertimento, mi ha mandato uno studio fatto non so dove, secondo il quale la dieta vegetariana ha effetti diretti anche sulle nostre performance nel sesso, semplicemente perché alcuni alimenti migliorano la circolazione sanguigna o la risposta del sistema nervoso e tanto altro ancora. Sostiene Red Ronnie insieme ad illustri scienziati, cioè dice sostanzialmente che chi è vegano scopa meglio. Alcuni studi, mi scrive l'amico Red, hanno evidenziato che i vegetariani emetterebbero odori corporei più dolci, sentite questa, odori corporei più dolci rispetto alla popolazione onnivora, e anche che le donne trovano i vegetariani significativamente più attraenti e piacevoli. Cioè, Prezzo, qui è in ballo una cosa molto interessante. Secondo quello che sostiene l'amico Red Ronnie, confortato, dice lui, da illustri scienziati, gli uomini vegani emetterebbero odori più dolci e dunque avrebbero una maggiore possibilità di attrazione, di attrattiva nei confronti delle donne. E io cosa devo dire? Oggi sappiamo, aggiunge ancora Red Ronnie, che le verdure crude possono migliorare le nostre doti di sesso, le nostre notti di sesso, anzi in particolare quelle a foglie verdi, attenzione, notti di sesso, in particolare quelle a foglie verdi, dalla lattuga agli spinaci, soprattutto se il nostro corpo deve sostenere uno sforzo. Ragazzi, non ce la faccio più io con queste cose, non ce la faccio più. Perché giustamente, non ce la faccio giustamente più. Mi scrive Emanuela Ferri, scusa, ma chi è Donato da Varese? E così dice, Emanuela Ferri è rimasta attratta da Donato. No, intimamente ha scritto, attratta Emanuela da Donato. Ferri mi scrive giustamente, ma scusa, chi è Donato da Varese? Donato da Varese è un grande, scrivendo che un grande, è un mostro. Un grande intellettuale. Donato, rispondi è tu. È un mostro. Donato, rispondi all'amica di Parenzo. Donato. Ma dove l'hai trovato? Purtroppo è lui che ha trovato noi, nel senso che chiama. Donato, Donato, rispondi all'amica di Parenzo, per favore. Ma non so l'amica di Parenzo se stia usando un antiprosi, una peripresi, non so cosa stia dicendo. No, è bene, è una delle mie più care amiche, Emanuela Ferri. Lavora da Giletti, in terra e sa bene in che condizione ci troviamo. Guarda che noi questo frangente di storia lo pagheranno i nostri figli. Risponda Emanuela Ferri. Lo pagherà, allora come si chiama la chi? Tutto il vuole andare all'Arena di Giletti, signor Donato da Varese, che lei lavora, è una delle autrici di punta dell'Arena di Giletti. Ma se vado all'Arena di Giletti devono scappare via tutti, da lì tutti devono scappare, dal maestro al regista, da andare via tutti. Quel programma è pieno di, ma non lo so, ma scarafà, è tutto vecchio, tu appena che tutto, mi sembra arriva che lui, non sto grande attore televisivo Donato da Varese, ma no, ma non è grande, non esperto, è un programma da farsi, non è un allora programma da farsi. Allora cosa? Io stavo soltanto dicendo, noi questo frangente lo pagheremo qua. Io voglio un incontro con un islamico. Io voglio incontrare anche con il più grande islamico che esiste. Ah, tu hai uno scontro con un islamico, dici? No, un incontro amichevole. Beh, no, io beh, non fare delle domande a un islamico, a un sì. islamico. Potremmo chiamare il signor, in uno dei prossimi giorni potremmo chiamare il signor Carabue, quello là che va ogni tanto. Bravo. Qui, io basta che lui gli faccio quattro domande, lui non mi saprà rispondere, però le domande che io faccio e le risposte che lui darà sarà fatto. Devono essere scritte. Beh, scritte, adesso siamo alla radio qui. Perché io conosco un posto, un luogo dove si dice che è un luogo infedele, dove c'è gente che è completamente diversa da me. Io non ci vado nemmeno se mi danno uno stipendio, diciamo, considerevole. Non ci entri in quel paese. Quindi bisognerebbe domandarsi come mai in questi ultimi vent'anni l'Islam si sta impadronendo piano piano dell'Europa in base a dei merda, in base a dei governi di merda in quell'Unione Europea, gente che non ha nemmeno, guarda, se tu sarebbe chiedersi come mai i farmaci non funzionano più. Quello non c'ha nemmeno il cuore, non c'ha, quella gente non hanno niente da chiedersi questo. Ma niente. Il primo bandito dell'Unione Europea. Juncker, anche Juncker bisogna mettersi contro adesso. Non voglio parlare nemmeno di Draghi, Draghi dovrebbe essere ucciso letteralmente. Ma questo già cazzo, ma bisogna chiedersi perché non funzionano i medicinali, però. Diceva in privato che Draghi doveva essere ucciso. Ma come ucciso? Ma è pazzo, bisogna chiamare a Lorenzin. No, ma c'è una falla nel sistema sanitario, è incredibile. Quando l'Europa viene attentata per essere completamente captovolta nelle sue strutture, quando l'Italia di cosa si occupa lui tutto il giorno? Quando i nostri però anziani sono stati vengono uccisi. Ma questo l'abbiamo capito. Devo ma dare nella vita cosa fa lei? La linea al traffico. Vorrei chiudere, Donato, con una tua, in 10 secondi, con una delle tue ultime performance canore. So che sei un cantante. Cantante? Sì, fa il cantante. Ma di che cosa? Compositore, cantante. 10 secondi. Compositore, per chiudere questo. Mozart era un compositore. Mahler, anche Cremonini, anche quello che canta la come si chiama? Quello hanno ucciso l'uomo ragno. Come non si chiama? Fa sentire ste cagate. Pure quel Donato da Varese. Non è un compositore. Ma come no? È Donato da Varese. Hai capito? Bach, Mozart, Mahler, Vivaldi. Questi sono, non Donato da Varese, non chiamarlo compositore, non devi chiamarlo mai compositore, è un malato di mente, capito? Dai, fammi 10 secondi, dai, 30 secondi, Donato. Vai. Bevi un attimo. Questa è la radio, però non si può stare in silenzio, Donato. Sono qua. Vai, attacca. Io ho detto, allora, se vuoi io posso parlare di mille cose. No, devi attaccare con la canzone, una canzone per chiudere, così per rilassarci un attimo. Dopo e devo prendere la chitarra, non lo so. Vabbè, traffico, dalla prossima volta, Donato, ciao. Traffico, veo chi là, vero chi là. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presento La Zanzara. Dire questo, comunque, chiamato per questo. Dunque, nella mia esperienza io ho notato che c'è una differenza di gusto tra patate vegane e quelle carnivore. Questo torna alla questione, rimanda alla questione dell'odore tra chi è vegano e chi è carnivoro. Io non ci credo a questa cosa qua, anche se Red Ronnie me lo ripete di continuo. È vero che c'è una distinzione, l'odore è diverso tra chi è vegano e chi è carnivoro. C'è chi mangia carne e emette un odore profondamente diverso, secondo alcuni più disgustoso. Quello di chi è vegano sarebbe più dolce. Renato da Napoli, ma abbiamo un ospite tra pochissimo, Parenzo. Oggi non è finita, oggi non è finita mica lì. Renato, vai. Giuseppe, volevo invitare il di Napoli resisti, a visitare la querela contro Giletti, dopo aver sentito quel signore, quel Giovanni da Napoli, che non rappresenta assolutamente nessuno. Bravo, rappresenta solo se stesso, come tutti quelli che parlano. Io rappresento solo me e basta, non rappresento né Napoli né altri. Sì. Chiedo scusa a mio nome, al dottor Parenzo. Grazie, vedi che esiste la civiltà. Questo è un napoletano, esiste, che non la pensa, no, come il napoletano precedente. È un crimine, ma quello lì è un pazzo, ha dato un'immagine della, infatti ha ragione, vedi, è una brava persona. Io a Napoli ci vado spesso, una volta al mese almeno, posto meraviglioso, si sta benissimo. Vabbè, ma che vado a mangiare questo? Da Mimì alla ferrovia. Ma cosa c'entra vado questo? Vado al Vomero, vado a Gomorra, lì a Scampia spesso. Io non vado, però. Vado a Scampia molto spesso. Io non vado, per carità. Però, a vedere, Parenzo, capire. Siamo da Scampia. Bravo, infatti sono stato molto lì al campo di calcetto. E sabato saremo tutti a Roma per la manifestazione in sostegno del dottor Di Matteo. Ah, quella in sostegno di Matteo. Questo signore non rappresenta nessuno, andava chiusa la telefonata. No, andava chiusa. Vedi che bella Napoli, che bella persona. No, io non chiudo nessuno, non ti preoccupare. Benissimo, dai spazi pure a me, immagino. No, che c'entra, questo non l'ho detto io. Non l'ho detto. Però quel signore non rappresenta nessuno. E spero che tanti napoletani chiederanno scusa anche a Giletti per l'assalto che gli è stato oggetto ultimamente, solo per aver detto una sacrosanta verità. Ecco, vedi, la verità di Giletti. Siamo nella merda e non ce ne accorgiamo, cerchiamo il sostegno e basta. Grazie Renato, ciao. A voi tutti. Oh, torna da noi per qualche minuto, lo ringrazio nonostante qualche diatriba con Parenzo nel passato. Sì. Un signore che si chiama Luca Casciani, buonasera, ciao Luca. Ciao Giuseppe, buonasera ai vostri ascoltatori e buonasera a David Parenzo. Ci mancava. Allora, Luca Casciani. C'era una galleria moderna. No, stai tranquillo, stai calmo. Allora, Luca Casciani non ha detto niente ancora, dai, finisce. Ho detto solo ci mancava. Allora, Luca Casciani conduce su Radio Ti Ricordi ogni giorno dalle 10 alle 13.30. Una trasmissione? 14.30. Una trasmissione purtroppo molto seguita, peraltro. No, una trasmissione chiamata Giorno sempre, purtroppo per giorno, giusto? Sì, giusto, giorno per giorno, esatto. Tutti allora, i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14. Ci sono state l'anno scorso delle polemiche, trasmissione xenofoba, ce ne freghiamo di queste cose qua. Ho letto una cosa che hai scritto a proposito dell'omicidio dell'anziana signora, quella di Ferrara, commesso dai due romeni. Leggo quello che hai scritto su Facebook. Da due persone. Ma io aggiungo due persone, perché... tra parentesi romeni. Ok, questo lo dici tu. No, lo dico io, certo, sì, assolutamente. No, era giusto sottolinearlo, perché io... non ho sottolineato. Beh, tu hai scritto invece... però queste due risorse. Che vuol dire queste due risorse? Due risorse riferito. Due persone che si comportano male sono chiaramente due risorse. Io le chiamo risorse chi si comporta male. No, però tu risorse ti riferivi a qualcuno nella sinistra che ha definito risorse gli extracomunitari o comunque le persone. Qui squilli. Leggi quello che ho scritto per fare sulla mia pagina ufficiale Luca Cassani. Furbetto. Allora, furbetto. Queste due risorse hanno ucciso a pugni e calci una donna di 84 anni con dentro in casa, dentro la sua casa. Bottino della rapina 80-90 euro. Io vorrei che fosse introdotta in Italia la tortura, in alternativa la morte lenta per dissanguamento. Attendo un'interrogazione parlamentare per istigazione alla violenza, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, tu dici tortura e in alternativa la morte lenta per dissanguamento. Lasciamo perdere la questione delle risorse, che era chiaramente una critica a chi considera queste due persone una risorsa. Cioè dire, non è vero che tu, non ti riferisci a queste persone come stranieri. Era ironico. Fai un riferimento agli stranieri, ma lasciamo perdere questa cosa qua, non voglio entrare in questa polemica e ci mettiamo... Secondo te tu l'avresti scritto anche se fossero stati due italiani, è così Luca? Questo te l'ho detto anche in privato quando tu mi hai chiesto molto gentilmente di intervenire . E io ti avevo detto che la cosa non mi faceva piacere, tu mi hai detto che invece mi davi la possibilità di parlare. Ecco di qua. Allora, sulla mia pagina ufficiale che è Luca Casciani Cor Veleno Corvo, tutti quanti la possono vedere. No, era per dire, perché poi bisogna anche toccare con mano, in questo caso accarezzare con gli occhi quello che ho scritto. Io tutti i giorni parlo per 4 ore, oggi ho dedicato mezz'ora a questo avvenimento e ho raccontato per filo e per segno ciò che può aver passato quella signora di 84 anni e ho cercato di far capire a chi mi sta ascoltando, poi alla fine si può essere d'accordo o meno, che la signora di 84 anni può essere nostra mamma, può essere nostra nonna e quando noi prendiamo tra le mani la faccia di nostra mamma o di nostra nonna e facciamo in modo di stringerla forte, ma non troppo forte, perché abbiamo paura che quel fisico minuto e consumato dal tempo possa stritolarsi sotto le nostre braccia e sotto i nostri abbracci, adesso pensate che quella stessa persona potrebbe essere nostra nonna, nostra mamma, è stata schiaffeggiata, presa a calci, buttata a terra, le hanno spaccato il femore. In questo momento, voi, considerando che si tratta di vostra mamma o di vostra nonna, a queste due persone che cosa avreste fatto? Io vi dico che sarei per la tortura. Per queste due persone, chi si azzarda a toccare una donna di 84 anni all'interno della sua casa? Sì. Lasciamo perdere... Però scusami, tu non ti riferisci però, Luca, scusami un attimo, io capisco benissimo, hai descritto anche in maniera molto drammatica, anche non se drammatica, vogliamo teatrale, vera, no, drammatica. Ma vera, certo, assolutamente, quello che è successo a questa signora. Però tu non ti riferisci alla reazione dei parenti, ognuno di noi può avere la reazione di uccidere le persone che commettono un reato del genere. La pancia, l'istinto è quella roba lì. Tu hai detto un'altra cosa. L'istinto è quello. Tu hai detto, aspetta, io vorrei che fosse introdotta in Italia la tortura, introdotta la tortura e in alternativa la morte lenta per dissanguamento. Allora, c'è una differenza tra la giustizia giustizia e la giustizia giusta che è quella percepita dalla stragrande maggioranza delle persone. Secondo te noi fino non a che, fammi non... parlare Giuseppe però beh, ti sto facendo parlare amico mio, perché fino a che noi pensiamo che le cose accadano sempre agli altri allora va benissimo, perché io ti dico beh certo effettivamente calcolando che è accaduta una signora di 84 anni che non conoscevo, una signora tra l'altro professoressa in pensione che ancora oggi sì. veniva visitata e tutte le persone, molti suoi ex alunni oggi 50enni, 60enni andavano ancora a trovarla, le portavano il panettone a Natale, quindi una persona meravigliosa, ben amata da tutti, e io dico oggi se è una persona estranea io dico ma no, bisogna mettere in galera questi due delinquenti. Vabbè, quello però, se la giustizia giusta, che è quella percepita da tutti, ci fa cioè, diventare la vera giustizia, figli. Secondo te, è la tortura oppure in alternativa la morte lenta per dissanguamento? Dimmi sul serio se la pensi così. La penso così. Fermo lì che c'è la pubblicità. Pubblicità, è un criminale. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. State ascoltando un programma offerto da Huawei. Make it possible. La Zanzara. Allora ragazzi, guai grossi pare per De Luca, perché nelle nuove intercettazioni spunta il patto, cioè il marito della giudice avrebbe protestato con il legale di De Luca per gli accordi non rispettati, cioè per le mancate nomine eccetera, e avrebbe anche minacciato: io non farò il direttore generale di una ASL. Ma lui perde la regione. E poi oggi in più cosa succede? Che succede? Un giornalista di Piazza Pulita va per intervistare la giudice, sì? Anna Scognamiglio, e viene trattenuto per 5 ore in stato di fermo. Questo è spiegabile, sì, questo è spiegabile. Ma questo è divertente, è pazzesco però. Trattenuto anche il materiale, adesso non so se verrà mandato poi stasera. Trattenuto anche il materiale, bravo, esatto, sono qui in contatto con la procura per capire. No, con gli amici di Piazza Pulita. Ma è pazzesco però, per 5 sì. ore trattenuto. No, che non si capisce, cioè uno va a fare un'intervista. Ma fossi un criminale. No, uno va a fare un'intervista, perché devi essere trattenuto, che reato hai commesso? Una cosa cioè. Incredibile. Bah. Vedremo. Allora, io vorrei capire perché hai definito, per quello che ha scritto Casciani, che ha spiegato, ancora con questo conduttore radiofonico romano molto, molto apprezzato, una radio dice la sua ogni mattina su una radio romana. Sì, ma ha delle responsabilità, non è che uno ma dice la sua. Ma perché l'hai così. Definito un criminale? Spiegami, perché? Criminale? Ma hai sentito cosa ha detto? Ma mi pare abbastanza evidente, non è che c'è da commentare. Ha detto quello che pensa. Cioè, quelle regole che dice lui valgono nei paesi tipo Arabia Saudita e altri. Casciani risponde a questa cosa. Non c'è stato di diritto. Lui pensa, lui dice io parlo alla pancia, chi se ne frega, io farei, ma chiunque di noi farebbe se gli toccassero la famiglia. Che cazzo di ragionamento è? Rispondi Luca, Luca rispondi. Vedi, allora io faccio un po' di fatica a rapportarmi a Davide Paese. No, però scusi, in questo caso gli ha fatto solo una critica, no, Luca, ma però. Anch'io. No, ma te lo dico, primo perché lui dice criminale senza rendersi conto che già il termine da solo potrebbe essere fortemente offensivo. Ma beh, lui sì, certo. Quello che hai detto è criminale. Aspetta. Fammi parlare, scusami. Io ti devo essere grato Davide, perché grazie a te capisco che esistono i miracoli. C'è una persona che è fortemente limitata, una persona che beh, anche tu lo offendi così parassita. Però no, vive come un parassita perché sei il famiglio di Cruciani. Ma no, continui... ma questo però no, scusa, se tu lui ti ha detto criminale, tu adesso gli stai dicendo il famiglio di Cruciani. Io ti faccio la critica nel merito delle cose, no, che hai detto. Fai la critica, non mi permetto di criticare la tua immonda persona. Vabbè, io non come posso persona parlare, Davide, io non posso parlare, io parlo alla gente tutti i giorni per 4 ore. Allora? E non vado a Ponta a presentare una rassegna. Ma che quando cosa vuol dire? Beh, quello che c'entra. Quella invidia. Che cazzo vuol dire? Vabbè, anche noi parliamo con la gente, scusa. Ma che vuol dire? Vabbè, abbi pazienza, anche noi parliamo con la gente. O mi fai parlare come l'avevo messo in privato, oppure ti attacco. No, ma che è il paladino della Borgata 4? Ma che sei? È il paladino della Borgata. Aspetta, fermo un attimo. Voglio parlare come mi hai detto tu. Io voglio parlare Luca, però d'accordo, in questo momento stiamo discutendo in maniera civile. Stiamo discutendo perché se uno mi dà del criminale. Beh, certo, hai detto delle cose criminali, evidente. No, criminale significa criminale. Io capisco, Parenzo, capisco perfettamente che nella tua inutilità fatta bassetta, nella tua stupidità fatta 1,60 m, entri ogni volta in un tasto e ascolti la mia voce, mi rendo conto che ti dà un po' fastidio a Roma sapere che una persona che la pensa in maniera diametralmente opposta nulla a quello che fingi di pensare tu, non me ne frega nulla. Io parlo alla gente e ti dico: ma anche noi ospitiamo la gente. Stomaco, ti ripeto, diciamo. Anche noi ospitiamo la gente. Però, mi fai aria allo stomaco. No, ragazzi, una cosa è ospitare, no, una cosa insomma, è parlare alla gente. Non ti preoccupare, siamo esperti. Forza, in questa dai, candidati, fai la lista, Casciani, come si chiama? Fai la lista. Che c'entra questo? Cosa parla la gente? niente. Ma aveva ragione quel cantautore quando diceva fai la lista, vediamo, dai. Ma aveva veramente ragione. Che ha detto quel cantautore? Che ha detto? C'era un cantautore di André che diceva che i nani non bisogna fidarsi dei nani perché hanno il cervello troppo vicino al buco del sedere. Quindi io capisco che con Parenzo faccio difficoltà a rapportarmi, ma almeno stessi ad ascoltare. Vabbè, allora un'ultima cosa, dimmi. Vabbè, adesso però Luca, tu però dicendo così lo insulti continuamente. Ti ha detto del criminale per le idee che hai espresso. Ma puoi dare del criminale ad una persona che dice una cosa e afferma una cosa? Cioè, tu hai detto, sì, d'accordo, tu l'hai spiegata, tu hai detto che vorresti che quella là morisse dissanguata, che quei due morissero dissanguati, e che hai detto che ci vorrebbe la tortura. Uno può anche dire, può anche replicare, beh, queste sono idee criminali. Certo, ma no, ma anche che sono idee criminali, adesso francamente può anche replicare così. Vedete che qua allora il problema, voi date del criminale ad una persona che afferma determinate cose, e i veri criminali, che sono quelli che il crimine lo hanno commesso, oggi vengono considerati come delle persone che devono essere redenti in qualche modo attraverso 10, 12, 15 o 8 anni di galera. Io su questo non sono d'accordo. No, ma questo l'ho capito. Parenzo, rispondi a questa cosa qua. Ma non c'è nulla da rispondere. Lui fa il conduttore radiofonico e pensa di poter dire quello che gli pare. Quello meno male. Sì, non c'è dubbio. Parla alla pancia delle persone. Dopodiché è talmente stupida la cosa che ha sostenuto, cioè che chiunque, l'introduzione della tortura e della morte per il dissanguamento, è il classico. Ma lui argomento. Non so se la vuole introdurre, magari. Ma lui cosa vuole? Fa Casciani, farà la lista. Ma perché devi denigrare le persone così? Una persona che parla va considerata come una persona che parla. La sua minchietta di mercato va bene, deve vivere, va benissimo. Parenzo, non c'è problema. Ma se vieni qui a Roma, Parenzo, se vieni qui a Roma, vivo a Roma, vivo in radio. Io ti invito a parlare. Non vengo a farti fare ascolto lì, mi devi pagare, ci vengo, amico. Mio. Mi devi pagare, amico mio, costa. A Roma sei nulla. Per venire da te. Ascoltami. Va bene, ragazzi, vi saluto. Ciao Luca, grazie. Ciao. Abbiamo un ospite che ha assistito a questa guerra formidabile tra David Parenzo e Luca Casciani. Questa ospite è una persona speciale che ha come nome Penelope. Come stai? Nome importante, omerico. Come stai, Penelope? Salve, buonasera. Anche il cognome, perché è un cognome. Ma certo, lo so, Penelope, lo so. Cruz, Penelope Please, appunto. Penelope, se Please. Non mi confondono con la Cruz, che non è bello. E certo, meglio Penelope Please di Penelope Cruz. Esatto, la pente so le amiche sì, donne, di solito. Penelope Please, in realtà trattasi di Marco Marras Casu, giusto? Adesso su Google. Esatto. Allora, cioè, trattasi di un uomo. È un uomo, sì, ma no, è una drag queen, Parenzo. Ah, okay, d'accordo. Abituati, nel mondo esistono anche le drag queen. A me va benissimo, mi stanno simpatico. Attenzione, la differenza è questa, signora Penelope Please, nome d'arte Penelope Please. Signorina. Marco Marras Casu di anni? Non si chiedono gli anni una signora, però, neanche una drag queen. Vabbè, diciamo facciamo un'eccezione. No, Penelope 22. Ti sei tolto qualche anno, però. Qualche anno, cara. Facciamo allora Penelope 22, Marco 42, prossimi 43. Beh, siamo veramente al top assoluto. Bisogna dire che la drag queen Penelope Please non è una trans, perché qui bisogna fare delle distinzioni, no? Okay. In questo mondo è strano che non abbia visto la storia della signora nel domenicale del Sole 24 Ore curato. Lei legge il Sole 24 Ore, signora Penelope Please? Cosa? Signorina Penelope Please, lei legge e conosce il Sole 24 Ore? Ma figuriamoci, non spreco soldi nel comprare si permette? Giornali, queste cose così. Io al massimo compro Top Girl o non lo so, cioè questi giornali così da noi ragazzi. Il Sole 24 Ore, il giornale economico, almeno sa il colore di la carta. Sì, ma guarda, ma no, di che colore è il sole? No? Di che colore è il Sole 24 Ore, signora Penelope? Ma non lo so, sarà rosa come la Gazzetta dello Sport, ma non va bene neanche per i cartamodelli, capisce? Ma cioè, come si permette? No. Ma lei conosce tutta la stampa italiana, a parte che adesso non fa stampare neanche più le robe porno, almeno una volta ogni tanto le ore. Beh, ormai i giornali porno non servono più i giornali porno, ormai c'è il web, eccetera. Lei per caso conosce il professor Roberto Napoletano, per caso il direttore Mario? Ci mancherebbe. Non so chi sia. Non so chi è. Sarà contento, secondo me. Sarà formazione. Se un po' lo conosco di questa cosa, credo che sarà contento. Oh, devi sapere, Parezzo, perché io ho chiamato il simpaticissimo, anzi, no, le do. Lei vuole essere, cioè, ti devo dare del tuo o del lei, signora Penelope? Ma fatto un po' come cazzo vi pare. Sì, so. Questo anche, questo molto anche immediato. Questo un confidenziale, confidenziale. Allora, Penelope, tu sei una drag queen e fai dei corsi. Specifichiamo una cosa che è importante per i genovesi, importante non solo per i genovesi, per tutte le persone che sono in Liguria e nei dintorni di Genova. Fai dei corsi di seduzione, giusto? Esatto, per solo donne. Solo per donne, cioè tu, uomo, donne. Uomo di anni indefiniti, diciamo sotto 42. I 30, diciamo. Sì, sotto i 30, drag queen, fai dei corsi di seduzione per donne. Ma per scusa, solo donne. Per sole donne, esatto. Ma perché le donne dovrebbero affidarsi a una drag? Questo è giusto. Cioè sostanzialmente a un uomo, a una persona che si traveste da donna, perché? Spiega. Questa dovrebbe essere una domanda da fare alle donne che vengono al corso. No, però tu perché, alla fine, perché vengono da te? Lo sai perché vengono da te? Beh, piacerà il fatto che magari, non so, facesse questo corso una bella gnocca, si sentirebbero forse in difficoltà. Invece un uomo travestito che sa camminare bene sui tacchi, perché io poi quando mi travesto sono anche un pezzo di gnocca, insomma, cioè ho questa voce qua, ho questa magia che dura 12 ore perché ho questa barbazza da sardo proprio che mi spunta dalla faccia, però quando salgo sui tacchi, metto la mia quarta di seno, il mio culo da 6 euro dei cinesi, tutte le mie curve al posto giusto, funziona questa cosa qua, diventa amicale il rapporto con le donne, si sentono un po' anche sedotte da questa figura un po' così ambigua ma molto amica e anche poco penetrativa, perché la cosa brutta un po' dell'eterosessuale che o ha come si può dire, non lo so, o ha della confidenza con una donna e allora può in questo modo la sta seducendo e insegnarle qualcosa, no? Un po' come si faceva ai vecchi tempi. Ecco, ma tu come ti definisci? Omosessuale, no? Come ti definisci? No. Come io mi definisco persona, proprio eliminato la sessualità dalla mia vita. Hai eliminato la sessualità, dunque come potrebbe essere la il definizione? Il termine sessuale proprio non mi appartiene. Ma come potresti essere al definito? Massimo, pansessuale. Pansessuale, questo piacerebbe, piacerebbe molto all'amico Amicone, all'amico, all'amico, che ne so, Parenzo, dimmi qualcuno, all'amico Gasparri, all'amico Giovanardi. A Ruggi Marito Ruggero. Dovete piacere a loro, allora sarei pansessuale e sodomita, mi piace molto la sodomia. Ah, ti piace molto la sodomia? Sì, eh? Da morire. Ma subirla o farla? Entrambe. Farla è più divertente, in effetti. Farla più divertente. Donare piacere è un atto è meglio, anche che avvicina un po' a Dio. Ecco, ma che tipo di insomma. Beh, sì, diciamo che adesso va spiegato bene questa cosa. Anche secondo me è così, però va spiegato bene. Io vorrei capire quali sono i corsi in cui sei specializzata, diciamo, nella seduzione. Cioè la specializzazione qual è? Quello che funziona di più è questo corso di seduzione dove insegno a camminare in 5 modi diversi sui tacchi. Camminare sui tacchi, sì, poi. Esatto. Poi facciamo una rilettura al femminile del Kama Sutra, il famoso libro che dovrebbe essere introdotto nelle scuole, un prodotto da uomini dovrebbe essere, cioè l'uomo dovrebbe prima studiare la teoria e poi applicarsi, poi donare piacere, poi facciamo storia del costume, storia del costume. Ma fai i corsi, anche di sesso, diciamo specializzato? No, io non faccio corsi di sesso, non insegno niente di sesso. Di sesso la parola seduzione vuol dire condurre a sé, perciò prendere consapevolezza corporale davanti allo specchio. Ma è vero che ieri sera eri impegnato in un'orgia? È vero, sì, è un'orgia dionisiaca. Che vuol dire orgia dionisiaca? Alimentare. Orgia alimentare, non sessuale. Alimentare, certo. E i corsi di fellazio, le fai i corsi di fellazio? No? I corsi di fellazio è il corso che funziona di più. L'applicazione concreta poi, o no? C'è l'applicazione concreta, sì, ma più che un corso sulla suzione, no? Insomma. No, non succhiamo niente, ma diciamo cioè, che teorei è una spiegazione sul come donare questo piacere, su come si fa, sono quelle dinamiche per allungare il piacere, ecco, ma secondo te un uomo che si traveste da donna becca di più? Assolutamente sì. Ah, tu io consiglieresti gli uomini eterosessuali di vestirsi molto più da donna? Capito, Parenzo? Mi piace questo lato femminile. Beh, guarda, ma io deve non ho essere nulla una contro. Cosa capito Parenzo, tu secondo me tu potresti in camera da letto, ma anch'io potrei vestirmi farlo da donna, ogni tanto qualche cosa di femminile ti assicuro che per ora non accade, però voglio dire, se vuoi ti mando una foto. Allora, questa è la prima lezione, continueremo a nostro piacimento quando Marco Marras Casu alias Penelope Please lo vorrà a fare, a distribuire altre perle. Per adesso la prima perla è questa: agli uomini, com'è, concludiamo in questo modo, agli uomini conviene ogni tanto travestirsi da donna, giusto? Vabbè. Non prendersi troppo sul serio da uomini, insomma, anche perché poi... Cioè, insomma, mettersi qualche cosa di femminile addosso, diciamo. Sì, sì, ci sta. Un tacco, la biancheria. Questo lo dice Penelope Please, comunque. Non è eccitante per la donna, no, tacco. Però magari una scollatura che fa vedere un po' il pelo, una cosa un po'... Non è che stiamo parlando di Lina Sottis, comunque, vabbè, dai. Cioè, Penelope, non è che si deve mettere un reggiseno. No, voglio dire, non c'è attimo. Intendo quello, però qualche roba un po' da buliciarsi potrebbe metterla. Bene. A buliciarsi traduco che è lì. Che vuol dire? Che vuol dire? Un po' checchizzarsi. Non ah, so come checchizzarsi dire. Un po'. Sì, un po' effeminarsi. Ti abbraccio fortissimo, ti do un bacio dove ti pare e ci sentiamo domani con tutti voi, con Luca Casciani, con tutte le persone che vogliono sparare a chiunque alle 18:30. Perché sei un testa di cazzo proprio. Perché il tuo atteggiamento non mi piace, così. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.